Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. E lo avevamo anticipato ieri che protagonista del soundcheck di oggi, di questa domenica, sarebbe stato il talento del giovane inglese Jacob Collier, un musicista eccezionale polistrumentista che si è formato musicalmente lì a casa sua in Inghilterra, nella sua stanzetta, guidato dai suoi genitori che sono degli eccellenti musicisti. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo e da Francesco Tromba. Ciao a tutti. Allora sì, si è formato in questa casa piena di note e di musica. Sì, i suoi genitori in realtà sono dei musicisti classici. Lui appunto ha iniziato a suonare che aveva neanche 4 anni, da lì è partito appunto, si è chiuso nella sua stanza delle meraviglie imparando a suonare tantissimi strumenti. Li suona tutti, dalla batteria al basso, il contrabbasso, pianoforte, naturalmente le tastiere, ma anche la chitarra, e soprattutto è un cantante eccezionale. Infatti, come abbiamo conosciuto tutti noi Jacob Collier ancora prima che venisse pubblicato il suo album, che poi è arrivato anche in ritardo rispetto alla fama che stava ottenendo fra i musicisti questo giovane ragazzo inglese. L'abbiamo conosciuto proprio perché ha utilizzato la rete. In che modo? Sì, su YouTube lui pubblicava i suoi video in cui appunto metteva nei vari riquadrini delle diverse versioni vocali, quindi costruiva quasi tutto con la voce e poi anche con batteria, basso, piano, tastiere, tutto. E appunto questi video hanno avuto una visibilità impressionante. Eh sì, impressionante, perché è scioccante quello che riusciva a fare Jacob Collier, quello che ancora oggi riesce a realizzare, ma era giovanissimo, aveva 15-16 anni e arrangiava qualsiasi brano a cappella con l'abilità e la padronanza di veterani come i Take Six. Sì, assolutamente, veramente il talento puro, potremmo dire. Allora, direi di ascoltare subito un esempio dell'abilità vocale di Jacob Collier, che nel nuovo album In My Room realizza il suo arrangiamento, la sua versione di un brano famosissimo, ovvero la sigla di un cartone animato importante come Flintstones, qui al Soundcheck di Radio 24. We'll have a gay old time. Eh sì, oggi protagonista del soundcheck il talento puro di quel meraviglioso musicista completo che è Jacob Collier, giovanissimo, lo conosciamo da tempo, da quando pubblicava i suoi video su YouTube, cosa che continua a fare, addirittura arrangiando per divertimento canzoncine proposte dai suoi fans. Sì, è veramente fortissimo, cioè rimani con un'invidia impressionante guardandolo. Eh sì, anche tu ti puoi far arrangiare, che ne so, tanti auguri a te, fai la tua versione e poi lui intorno alla tua voce costruisce il suo arrangiamento. Ma io non so dove possa trovare il tempo per fare tutto ciò con l'attività frenetica che ha. Sì, poi adesso ha un tour mondiale, cioè in giro in tutto il mondo, Giappone, America, ecco, tu Europa. L'hai incontrato? Sì, io l'ho incontrato in occasione del suo concerto a Roma Jazz Festival, quindi non mi sono fatto sfuggire l'opportunità di fargli un paio di domande. Di conoscerlo, come l'hai trovato come ragazzo? Intanto mi sembra molto determinato, molto convinto delle sue idee, oltre ad essere bravissimo ad esprimersi anche nelle interviste, perché appunto lui domanda, risposta secca, veloce, con ritmo, senza perdere tempo e senza perdersi in discorsi inutili. Ecco, poi la performance l'hai vista? Sì, ho visto anche la performance, che è veramente impressionante, cioè lui sul palco con... Da solo? Sì, da solo, con tutti i vari strumenti in fila, ci sono due telecamere e c'è un suo collaboratore che si occupa dei video, cioè praticamente vengono proiettati come se fossero tanti Jacob Collier che suonano uno il basso, uno il piano, uno canta. Quindi ripropone dal vivo quello che poi noi abbiamo imparato a vedere e a conoscere su YouTube di questo ragazzo. Sì, con una resa veramente impressionante. Allora, facciamo una cosa, poi ascoltiamo qualche passo di questa intervista che hai realizzato con Jacob Collier, ma vorrei proporre il brano che mi ha fatto innamorare del talento di questo ragazzo, che è la sua versione di un successo di Stevie Wonder intitolato Don't You Worry About The Thing. Ormai stiamo parlando di una operazione di Jacob Collier di quanti anni fa? 5-6 anni sì, fa? No, 4. 4 anni fa. Soundcheck. Il suono della musica. Close to You, che brano, una composizione di Burt Bacharach nella versione Contemporary R&B by Jacob Collier. E questa versione di Close to You di Jacob Collier non la troverete nel nuovo album intitolato In My Room, ma soltanto nella sua pagina su YouTube. Allora, Francesco Tromba ha avuto il piacere di incontrare questo talento inglese e di fargli qualche domanda, quindi vogliamo sentire un passo dell'intervista? Sì, la prima domanda che volevo fargli è appunto quella del come si intende lui, se lui si crede di essere un musicista di jazz o no, se lui vuole fare il musicista di jazz da grande o no. Lui mi ha risposto in questo modo. Definitely not. I think that jazz can be home to lots of different styles like funk and soul and folk. Lui mi ha detto che non vuole essere un musicista di jazz, semplicemente che il jazz è un modo di intendere la sua musica, è l'ambiente che può legare tutto quello che a lui piace, nel senso che a lui piace fare funk, R&B, soul, e il jazz è quello che riesce a legarli tutti insieme. È forte perché pur avendo 20 anni ha una voce con tutte le note che ha cantato già matura. Sì, veramente sembra già un quarantenne per la voce. Poi che gli hai solo chiesto? La sua voce. Un'altra cosa che gli ho chiesto è appunto il fatto che lui vada in tournée da solo, che sia appunto un one man show, però lui mi ha appunto quindi risposto. Quindi come ha organizzato questo tour da solo? No, semplicemente gli ho detto ma tu ti stai perdendo la parte migliore appunto di andare in tournée, di girare il mondo, ovvero avere dei musicisti e degli amici accanto. Lui invece mi ha risposto in questo modo. Yeah, well, I travel with three people. One does the video and one does the stage and one does the sound. Lui mi ha detto che in realtà non viaggia da solo perché appunto c'è chi si occupa della parte video, chi si occupa della parte del suono, nel senso che mixa tutti gli strumenti che ci sono insieme. Quindi non è assolutamente da solo. Si muove appunto con questi altri suoi collaboratori ed è contento di questo. La sua idea è quella appunto di spingere il più possibile questo one man show al limite delle sue possibilità. Sì, voglio ricordarvi che anche l'ultimo album In My Room è stato completamente suonato, arrangiato, scritto e pensato esclusivamente da Jacob Collier. Ha suonato tutto lui. Il brano si intitola Savior. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Praticamente canta e suona di tutto, arrangia di tutto con la sua voce. Qui infatti Jacob Collier si è lasciato andare a un arrangiamento impressionante di un classico di George Gershwin come Fascinating Rhythm. Qui al Soundcheck di Radio 24 vi stiamo raccontando l'incontro fatto dal nostro Francesco Tromba con uno dei più incredibili talenti contemporanei della musica di oggi. Sì, è stato veramente interessante ascoltare le sue risposte alle mie domande, perché un'altra domanda che gli ho fatto, che mi premeva assolutamente fare, era quali fossero i suoi strumenti preferiti, appunto, perché lui ne riesce a suonare veramente tantissimi. Li suona tutti. Sì, e lui mi ha risposto appunto che in realtà Oh, that's a hard one. in some ways if you play, non è facile appunto dire solo tre strumenti che a lui piace suonare. Principalmente gli piace suonare piano, batteria, basso e voce. E poi mi ha detto anche che appunto lui ha iniziato da alcuni strumenti, però ci sono alcuni strumenti che ti fanno imparare tanti altri, ti aprono altri mondi, come ad esempio iniziando a suonare il piano hai iniziato a suonare le tastiere, la melodica, la fisarmonica, suonando il basso hai imparato a suonare anche il contrabbasso, suonando la chitarra hai imparato a suonare la balalaica. Quindi ci sono, si è aperto un mondo per lui di volta in volta che imparava uno strumento. Eh sì, e li suona tutti bene, ma la cosa che mi colpisce di più di Jacob Collier è la facilità dell'utilizzo dei linguaggi diversi della musica, perché passa da arrangiamenti molto vicini al mondo classico, che è quello che ha frequentato naturalmente con i suoi genitori, al jazz, al blues, al funk, all'R&B e anche qualcosa di etnico. Io direi di chiudere questo appuntamento del nostro soundcheck ascoltando un altro brano tratto da In My Room, album di Jacob Collier che vi consiglio di acquistare. Tra l'altro ha scalato anche per un breve periodo la classifica discografica di vendita su iTunes per quel che riguarda il jazz in Italia. E il brano che vi voglio far ascoltare si intitola Down the Line. Io lo trovo meraviglioso. Grazie a Francesco Tromba per il lavoro che stai facendo per il nostro soundcheck. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 19.15 qui su Radio 24, ma anche alle 21.15 mercoledì con variazioni su tema su Rai 5. A tutti voi buona serata, buona musica e buona settimana da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba.